Ibrahim Gökçek era il bassista del gruppo musicale Group Yorum, era un musicista, un gruppo che esiste da più di 35 anni e che fa della musica molto politicizzata, di resistenza, di lotta, un gruppo che si concentra sulle sofferenze degli ultimi in Turchia, diciamo. È un gruppo a cui era stato impedito di suonare. Esatto, Group Yorum in realtà non è la prima volta che subisce della censura oppure diversi impedimenti. Tutta la sua vita è piena di esperienze di questo tipo. Ultimamente, in questi ultimi 3-4 anni, ovviamente la repressione si è intensificata un po'. Succede per tutti quanti in Turchia in questi ultimi 4 anni. Il centro culturale Idil, in cui registravano, provavano, tenevano la loro documentazione i membri del gruppo Roma, ha subito diverse irruzioni, circa 10 irruzioni della polizia, stiamo parlando delle sezioni speciali e antiterrorismo della polizia. Alla fine i membri pian piano sono stati arrestati, presi in detenzione provvisoria, alcuni sono stati scarcerati, poi successivamente riarrestati. Ibrahim ha fatto parte di questa ondata, come tanti altri del gruppo. Inoltre, in questi ultimi 3 anni, nessuna prefettura in Turchia ha permesso ai gruppi Rom di esibirsi, quindi tutte le date che venivano fissate con, magari in collaborazione con i sindaci locali oppure con le aziende organizzatrici private, venivano annullati dall'ordinanza della prefettura, perché il gruppo pian piano era stato comunque criminalizzato. In effetti Ibrahim e gli altri erano stati inseriti nella lista dei cittadini ricercati, lista grigia praticamente del ministro dell'interno. La battaglia condotta da Ibrahim è stata, come dire, molto determinata, ha fatto lo sciopero della fame per quasi un anno. Più di 320 giorni, prima ha iniziato in carcere con lo sciopero della fame e poi ha deciso di convertirla nello sciopero della morte, e le sue condizioni di salute erano molto gravi e quindi è stato scarcerato insieme a Helin, che è mancata ormai una settimana fa, e nella stessa casa hanno portato avanti la loro lotta. Lunedì 5 maggio ha deciso di interrompere lo sciopero della fame e morte, perché riteneva che avesse ottenuto una vittoria politica, una maggiore visibilità. Alcuni parlamentari nazionali si erano messi in mezzo, parlamentari dell'opposizione, per creare un canale di dialogo tra i membri del gruppo Rum e la prefettura di Istanbul, con l'idea di fissare un concerto, però era tutto in fase di trattativa. Ma perché un gruppo musicale fa così paura alle autorità turche? Perché ha uno spirito critico. Non è la prima volta, il gruppo Rum nasce sotto la dittatura dei colonnelli negli anni 80, per più di 30 anni, più di 35 anni non hanno cambiato la linea, hanno parlato dei minatori obbligati a lavorare per 4 soldi senza assicurazione, hanno parlato degli studenti universitari che venivano malmenati dalla polizia durante le proteste contro l'aumento delle tasse, hanno parlato degli operai in sciopero contro la privatizzazione selvaggia, hanno parlato degli accademici, dei professori, dei politici, di altri musicisti, di altri scioperanti della fame. Hanno parlato, utilizzando la terminologia cattolica, degli ultimi della Turchia, degli oppressi, ed è, oltre a fare questo sistematicamente, quindi oltre ad essere un gruppo molto coerente, ovviamente Group Yorum in questi 35 anni ha venduto tantissimi dischi e ha realizzato numerosi concerti, registrando notevoli record. Nel 2010 hanno riempito lo stadio calcistico di Inönü a Istanbul con 55.000 persone, un concerto a ingresso gratuito, e tutti a memoria cantavano le canzoni di ribellione, di resistenza, esistenza di Gruppi Rom. Gruppi Rom non era un gruppo composto da 5 persone, a volte esibivano sul palco con anche quasi 100 musicisti, cori, altri gruppi musicali che suonavano con loro. Piazza Bakırköy Istanbul, in Piazza Gündoğan a Izmir, hanno registrato quasi 1 milione di spettatori. In ogni festa importante, in ogni evento importante, ma di massa, Gruppi Rom era sempre lì presente, chiamava le persone a resistere e portare avanti la lotta contro la repressione. Per questo ovviamente ha fatto paura a tutti quanti, non soltanto a questo governo.